si può fare. Cronache da un paese migliore. Si può fare. Di Alessio Maurizi. Buongiorno, buongiorno, buon sabato cari ascoltatori, buongiorno da Alessio Maurizi e ben ritrovati con Si può fare, il buongiorno del weekend di Radio 24 dalle 7.30 alle 10, domani dalle 8.30 alle 11. Cominciamo subito tra poco a dare un'occhiata alle prime pagine dei giornali, poi i nostri approfondimenti, ma adesso per iniziare una buona notizia. And now the good news. E questa volta non andiamo a cercare qualcosa di strano, ma o di piccolo o di locale, ma andiamo a cercare una dichiarazione di ieri del commissario agli affari economici e monetari Olli Rehn, che tra le righe, parlando anche dell'Italia, ma parlando della situazione economica internazionale, ha detto: potremmo rivedere al rialzo le previsioni dell'economia europea, di crescita dell'economia europea, perché l'economia globale sta andando meglio del previsto. E se lo dice il commissario gli affari economici e monetari Olli Rehn, dobbiamo crederci, possiamo sperarci. Quanto all'Italia, quel margine di flessibilità sui nostri conti, cioè la possibilità di spendere 4-5 miliardi di euro in più per gli investimenti, beh, questo, ha detto Rehn, sarà condizionato in realtà alle privatizzazioni e alla spending review, cioè se saremo bravi sui conti potremo fare degli investimenti in più. Ma la notizia, ripeto, è che le previsioni per l'economia globale migliorano e quindi le stime di crescita dell'economia europea pure. Questo, ma soprattutto di altro, si occupano i giornali di oggi. Spazio, grande spazio all'incontro di oggi tra Renzi e Berlusconi, poi le parole di Obama ieri, che ha parlato insomma del piano di riforma della sicurezza nazionale. Ma cominciamo subito con il Corriere della Sera, titolo principale dedicato appunto alla politica. Renzi, Berlusconi nella sede del Partito Democratico. Oggi l'incontro, i bersaniani però avvertono: così cade il governo. Sulle riforme il segretario sfida il premier, ma anche Alfano. E poi c'è l'elogio del cavaliere Bravo Matteo, che sfida quelli del suo partito per incontrarmi. La fotonotizia a centropagina riguarda Hollande e le tre donne insieme in una foto. Il presidente è andato a trovare la premier dame Valérie in ospedale. Questa è la notizia. Invece la foto è una foto del 2011, nella quale si vedono il presidente che parla con la premier dame di spalle, alla sua destra due posti più in là in una platea, evidentemente in un incontro pubblico, Ségolène Royal, e poco più dietro Julie Gayet, l'attrice quarantenne con la quale da 2 anni circa il presidente francese ha una relazione che sta facendo inevitabilmente discutere la Francia. Sempre dalla prima pagina del Corriere, allora un commento di Gian Antonio Stella su le frasi di Pescante: ma si possono perdonare quelle sparate usa e getta? Leggiamo brevemente perché così merita. Ops, scusatemi, è scappata. È un po' di tempo che un pezzo di classe dirigente di questo paese, dove ogni parola evapora nel quotidiano chiacchiericcio da comari, pensa di disfarsi di certe sparate razziste come ci si disfa di un fazzolettino usa e getta. L'ultimo è stato Mario Pescante, che ha accusato Obama, lo ricorderete forse, di terrorismo politico, niente po' di meno, per aver deciso di mandare 4 lesbiche alle Olimpiadi di Sochi. E sappiamo che proprio per l'atteggiamento della Russia, diciamo così, quantomeno restrittivo sulla vita degli omosessuali in quel paese, alla cerimonia di inaugurazione di Sochi mancheranno molti leader internazionali, tra cui lo stesso Obama. E Pescante si era lasciato sfuggire questa battutina un po' stupida. E in effetti, se uno è un dirigente di quel livello, insomma, ogni tanto qualche conclusione andrebbe tratta dopo aver detto fesserie come questa. Pescante poi ha fatto una parziale retromarcia, ma insomma, secondo Gian Antonio Stella non basta. Repubblica, Berlusconi da Renzi, governo in tilt. Oggi il vertice nella sede del Partito Democratico. La minaccia però di Letta, che arriva in diretta, è avanti così e mi dimetto. Cioè in diretta, nel senso che Letta non ha detto questo, però insomma filtra dalle posizioni del governo. Obama: non spiro più gli alleati, limiti alle intercettazioni NCA. Con parole forti, scrive Vittorio Zucconi su su Repubblica, ma con sostanza debole, Obama ha dovuto riconoscere che il Datagate ha colpito al cuore i valori americani. Il mondo pretende dall'America che rispetti i diritti civili e la Costituzione. Noi siamo ciò che i nostri valori fanno di noi, ha detto Obama. Restando in America, c'è un'altra fotonotizia: il banchiere travestito da drag queen, così l'alta finanza torna a sorridere. Il super manager di ABN AMRO, scrive Federico Rampini, banchieri, ecco quali lezioni potete imparare dalla gestione di un bordello. Chi parla se ne intende davvero è uno di loro, un banchiere. Comincia così lo stupefacente, esilarante, controversa esibizione teatrale di Priscilla Zalm, il nome d'arte come drag queen travestita, quindi, del presidente di ABN AMRO Gerrit Zalm, che appunto adesso poi leggeremo, perché insomma fa ridere. L'alta finanza che torna a sorridere, ma c'è dietro anche una morale, secondo Federico Rampini. Sulla prima pagina della Stampa invece un'altra, il titolo è sempre quello: Berlusconi a casa del PD, oggi nella sede dei Democratici l'incontro con Renzi sulla legge elettorale. Poi c'è la foto di Pechino, troppo smog a Pechino, l'alba sul maxi schermo, l'iniziativa delle autorità cinesi in piazza Tiananmen, l'inquinamento dell'aria 26 volte più alto della soglia prevista dall'OMS. Si vede appunto una piazza ingrigita con l'unico tocco di colore, questo mega schermo nel quale è ritratto un tramonto che evidentemente non è possibile vederlo ad occhio nudo. Allora l'unico modo per farlo vedere ai cittadini di Pechino in piazza Tiananmen è quello di riprodurlo su un maxi schermo, un'iniziativa che solo in Cina si poteva vedere. Sole 24 ore. Unione Europea, a rischio la flessibilità sui conti per quanto riguarda l'Italia. Notizia che dicevamo prima, il commissario europeo, margini solo se l'Italia farà privatizzazioni e spending review. Sullo sfondo però le previsioni migliorate per l'economia globale, anche se non ci sono cifre, e quindi le stime anche se migliorate per quanto riguarda la crescita dell'economia europea. Ma il Sole 24 Ore si occupa anche di questo: redditometro verso lo sblocco, nei modelli fiscali del 2014 le avvertenze ai contribuenti sull'uso dei dati, spariscono però i riferimenti alle spese medie dell'Istat. Il Sole 24 Ore dedica dunque ampio spazio al redditometro, perché si avvicina il debutto del nuovo redditometro. Tra poco continueremo a dare un'occhiata alle prime pagine dei giornali, tutti gli altri giornali, gli approfondimenti. Adesso facciamo una breve pausa e poi la rassegna stampa europea. Lasciate anche voi un messaggio alla segreteria telefonica di Radio 24 al numero 828 12 12. La vostra ricetta per salvare l'Italia in un minuto. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Buongiorno cari ascoltatori da Alessio Maurizi, ben ritrovati con Si può fare. Staremo insieme sino alle 10. Se volete interagire in tempo reale con noi, ci trovate per esempio su Twitter, l'account del programma è chiocciola Si può fare 24, il mio chiocciola Ale Maurizi. 800 24 00 24 il numero verde per intervenire in diretta. Potete chiamare per commentare quello che sentite, le notizie insomma della rassegna stampa, ma anche quello che sentirete più avanti, e poi fare come ogni sabato, raccontare che cosa ha reso bella la vostra settimana. E anche questa settimana mettiamo in palio i biglietti della mostra di Munch a Genova. Andiamo però appunto a dare un'occhiata alle prime pagine dei giornali. Continuiamo quello che abbiamo iniziato a fare alle 7.30 circa, titoli in gran parte dedicati a questa attesa per l'incontro di oggi tra il leader del PD e quello di Forza Italia, Renzi e Berlusconi, nella sede del PD, scrive il Corriere della Sera. Oggi l'incontro sulle riforme, il segretario sfida il premier e Alfano, l'elogio del cavaliere, bravo Matteo. I bersagnani però dicono: così cade il governo, e questa è un po' la minaccia sotto traccia. Insomma, i bersagnani, ma anche il nuovo centrodestra, spingono per un accordo all'interno del perimetro di governo per la legge elettorale, ma per esempio c'è chi, come il ministro Del Rio, renziano, su Repubblica, risponde a questo a questa posizione. Non si fa nascere la Terza Repubblica subendo i ricatti di chi è al 2%, dice Del Rio. Il governo non c'entra, chi vuole la crisi lo dica. Leggiamo brevemente l'intervista. I vostri alleati vogliono prima un'intesa di maggioranza e poi allargare il campo, non viceversa, risponde Del Rio. Un confronto serio con tanti esponenti di maggioranza c'è e c'è stato, ne sono testimone diretto, ma forse il fatto che questo dibattito si svolga in modo trasparente è una novità sgradita a chi preferirebbe invece andare avanti con telefonate e incontri in oscuri salottini, perché è vero che questo è un po' la tradizione, no? Il passato per quanto riguarda trattative come questa sulla legge elettorale, che poi con quel sistema non sono mai andate in porto, ma al di là del metodo che è stato usato c'è molto, come dire, scetticismo quantomeno da parte, credo, dei cittadini, degli lettori dei giornali e degli ascoltatori quando si parla di questi argomenti. Ma tant'è. Ancora la domanda: fino ad ora però una proposta di maggioranza non è uscita, risponde Del Rio. Bisogna trovare un modello che garantisca il funzionamento di questa Terza Repubblica che vogliamo far nascere, e non credo che lo si possa fare con una proporzionale puro e con la garanzia di ricatto al governo da parte dei partiti del 2%. Come allora? Serve un sistema che dia vita ad alleanze chiare, che permetta agli elettori di capire per chi stanno votando. Se poi si tratta di un turno o di due turni non è un problema, l'importante è garantire la possibilità di dar vita a maggioranze solide e capaci di portare in fondo le proprie scelte. Ma il governo sulla legge elettorale rischia di cadere? Ragionare sulle regole del gioco non ha nessuna attinenza, dice Del Rio, con l'azione dell'esecutivo, alla quale peraltro Renzi non ha mai dato un limite temporale. Se ora raggiungere le riforme deve portare alla caduta del governo, proprio non capisco. Chi invece lo pensa deve avere il coraggio di dire al paese che agisce per l'interesse particolare del suo piccolo partito. Così dunque il ministro Del Rio risponde ai bersaniani e al nuovo centrodestra, che appunto auspicano un accordo all'interno della maggioranza che tiene in piedi Letta per quanto riguarda la legge elettorale. Renzi invece ha sempre detto che vuole un accordo più largo, il più largo possibile. Oggi l'incontro con Berlusconi, vedremo se un'eventuale intesa con Forza Italia precluderà oppure comprenderà. Oggi i giornali sono pieni di retroscena su questo, appunto anche il nuovo centrodestra con quale sistema elettorale, quello spagnolo, il Mattarella. Quello dei sindaci d'Italia pare essere passato di moda al momento. Una curiosità che riguarda sempre la politica invece ce la riporta il Corriere di oggi. Con Marco Rizzo torna il Partito Comunista. Congresso e nuovo simbolo. Rinasce il Partito Comunista. A mezzogiorno di domani Marco Rizzo chiuderà il congresso dei comunisti Sinistra Popolare in corso all'auditorium di via Frentani a Roma, che traghetterà la formazione politica al nuovo nome e al nuovo simbolo, quelli appunto del Partito Comunista. L'obiettivo, spiega Rizzo, è l'uscita dall'Unione Europea e dall'euro. Chissà cosa ne penserebbe Marx, l'ispiratore di tutti i partiti comunisti, di questo obiettivo di uscire dall'Europa e dall'euro. Andiamo avanti sui giornali con i titoli che riguardano per esempio la rivolta contro l'IMU e la TARES, scrive Libero. Trattati come sudditi, la rabbia dei cittadini costretti a un calvario per orientarsi nel caos provocato da Saccomanni. Basta, se vogliono che versiamo i contributi ci mandino i bollettini a casa come nei paesi civili. C'è una foto, contribuenti in coda a Varese, si vede una coda lunghissima, code da terzo mondo per pagare le tasse, vergogna italiana, così scrive Libero. Che poi all'interno ha due approfondimenti: cartelle pazze, moduli sbagliati, romani infuriati, ma Marino tace. Poi l'altro articolo: un giorno in coda per ritirare i moduli, lombardi abbandonati dai comuni, ressa da Varese a Brescia. Dello stesso argomento, sullo stesso argomento c'è un approfondimento anche sulla Stampa di oggi, che scrive le stesse cose praticamente. Mini IMU, maxi caos, la rabbia degli italiani in coda per il saldo, a 7 giorni dalla scadenza e assalto ai caffè e agli uffici postali, e lo psichiatra, pensate, certifica, i contribuenti soffrono da stress e da imposte. E vorrei anche vedere quando si paga entro il 24 gennaio, dove si paga in 2401 comuni. Come si calcola, ci ricorda la stampa, bisogna ricavare la differenza tra l'IMU originaria e quella chiesta dai comuni e poi va versato il 40% di questa cifra. Per entrambi i fattori vanno prese in considerazione però le detrazioni, quindi è un calcolo, insomma, chi lo sa fare lo fa da solo, altrimenti ci vuole il commercialista, non c'è niente da fare. Chi non paga, le regole tributarie dicono che l'obbligo di pagamento è annullato quando il debito fiscale non supera i 12 euro, perché stiamo parlando di cifre infinitesimali in alcuni casi. Ma i comuni possono avere deciso a loro volta di abbassare la soglia e quindi di farti pagare anche 10 euro, per cui bisogna informarsi, ci ricorda appunto la stampa, che poi dice ancora come si paga. Sui siti di molti comuni si possono trovare i calcolatori che aiutano ad arrivare alla cifra da pagare e permettono di compilarsi e stamparsi da soli l'F24 con cui versare le cifre. Informazioni possono essere richieste naturalmente a CAF e commercialisti. Così dunque, a proposito del caos IMU. Il Fatto Quotidiano invece, oggi Renzi e Berlusconi possono far cadere il governo, questo è il titolo principale, però poi il giornale di Padellaro ci ricorda anche questa notizia qua: pattumiera Calabria, dopo i gas siriani ecco la mega discarica. A un centinaio di chilometri dal porto in cui transiterà l'arsenale di Damasco si scava il secondo sito più grande d'Europa, una bomba ecologica che minaccia la vita di 100.000 persone. Di che si tratta? Leggiamo, la chiamano isola ecologica Battaglina. In realtà sarà una discarica delle dimensioni gigantesche, la seconda più grande d'Europa, costruita su due falde acquifere con il rischio di avvelenare un intero territorio. Se sarà realizzata, la discarica rischia di diventare la pattumiera d'Italia, autorizzata dalla regione Calabria, nonostante, questo il punto, gli inquietanti pareri di VIA, valutazione impatto ambientale del Dipartimento delle Politiche dell'Ambiente, che nell'agosto del 2009 scrivevano così: l'area ricade in zone boscate derivate dal rimboschimento, cioè zone che sono state rimboschite a spese nostre e poi adesso tagliano gli alberi e ci fanno la discarica, e fin qua. Risulta distante dall'alveo del torrente a valle circa 150 metri, cioè c'è un fiume che passa a pochi metri e quindi una falda acquifera che si potrebbe inquinare. L'area è compresa in zona sismica di categoria 1 e vai. E poi soprattutto la discarica per rifiuti inerti prevede anche lo smaltimento di rifiuti contenenti amianto. Ci potrebbero però essere pericoli per gli abitanti, questi sono documenti ufficiali, a causa della possibile dispersione di fibre di amianto provenienti dalla discarica, perché è sottovento rispetto alla direzione prevalente dei venti, perché questa è una zona dove ci sono anche le pale eoliche, cioè vogliono fare una discarica in un punto dove ci sono le pale eoliche, quindi ci soffia il vento, dove poi potrebbe andare anche l'amianto e via che il vento se lo porta in giro. Questo è quello che scrive il Fatto Quotidiano, la super discarica che appunto minaccia 100.000 persone, l'isola ecologica Battaglina. Staremo a vedere. Sole 24 ore. Abbiamo detto, l'approfondimento è dedicato al redditometro verso lo sblocco, spariscono i riferimenti alle spese medie dell'Istat nei modelli fiscali 2014, le avvertenze ai contribuenti sull'uso dei dati. Dal Corriere però di oggi un piccolo approfondimento riguarda la CGIL, un congresso di 5 mesi e lo scontro Camusso-Landini, scrive Dario Di Vico a proposito di questo. Il copione prevedeva che il congresso della CGIL, un evento mostro che dura di fatto da 5 mesi, da gennaio a maggio, dovesse concludersi con una risoluzione unitaria. Infatti il documento politico che apre il dibattito è sottoscritto sia dal segretario generale Susanna Camusso sia dal leader della FIOM Maurizio Landini, ma le cose in questi giorni stanno cambiando con una rapidità incredibile, per cui è probabile che si debba riscrivere il finale. La conclusione del direttivo di ieri, con la clamorosa spaccatura tra i due principali protagonisti, Camusso e Landini, autorizza a pensarlo. A cambiare le carte e a dividere di nuovo i due, la Camusso e Landini, è il diverso giudizio sui regolamenti attuativi dell'intesa Confindustria sindacati sulla rappresentanza, sulla certificazione della rappresentanza. Insomma, è un po' difficile da capire, è scritto un po' in sindacalese, ma d'altra parte questo è l'argomento. Il tema però è che nel principale sindacato italiano si va verso una rottura, non è una novità, ma questa volta c'è di mezzo il congresso tra il segretario Camusso e Maurizio Landini, anche se il segretario della CISL Bonanni ricorda, a proposito della FIOM, che per esempio non è più il principale sindacato dentro la Fiat, ma è stata scavalcata, scrive Di Vico, dalla FIM CISL. Vabbè, insomma, approfondimenti per quanto riguarda il mondo del sindacato, che altro? Basta, direi ci fermiamo qua. 800 24 00 24, abbiamo tratto spunti dai giornali di oggi, torniamo tra pochissimo. Si può fare cronache da un paese migliore. Al mattino è un po' grigio se non c'è il dentifrigio. Alla notte no. Tu ti guardi allo specchio e ti sputi in un occhio. Ma alla notte no. Ma comincia il lavoro e dimentichi il cuore. Ma alla notte no. Parli sempre e soltanto delle cose importanti. Ma alla notte no. La stima se non trovi la rima. Ma la notte no. Ti distrugge lo stress e dimentichi il sesso. Ma la notte no. Ma la notte no, ma quante sono le cose che non si fanno normalmente la notte? Per esempio non si va a fare la TAC, non si va in ospedale, non si vanno a fare gli esami normalmente in ospedale. Ma da qualche tempo il vento sta cambiando, lo sapete, è iniziato credo in Veneto e anche in altre regioni italiane. Piano piano si sta diffondendo questa cosa e noi siamo andati questa settimana invece in Puglia, dove parte anche qua una sperimentazione per abbattere le liste di attesa negli ospedali. Questo è l'obiettivo e tra le varie cose che si prevede di fare c'è anche questo, gli esami la notte. E noi abbiamo convocato l'assessore al welfare della Regione Puglia, Elena Gentile, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora, siamo partiti così, anche leggeri, no? Anche scherzandoci su. Non siamo abituati ad andare all'ospedale la sera, la notte. Adesso poi ci spiegherà esattamente di che cosa si tratta con questo protocollo. Intanto l'obiettivo è, l'abbiamo chiarito, abbattere le liste di attesa. Come vi state muovendo? E la progettazione, la sperimentazione, il progetto parte dalla provincia di Foggia, diciamolo anche per gli abitanti della regione, così sono più informati, assessore. Certo. Allora abbiamo provato, ci stiamo provando, il risultato è certamente incoraggiante, i pazienti hanno accolto di buon grado il nostro invito a recarsi negli ospedali, nelle unità operative di radiologia, di cardiologia, per essere sottoposti agli esami che attendevano da tempo, liste di attesa insopportabili. Ecco, no? Ci fa qualche esempio giusto per capire, perché poi vale anche per le altre regioni, non è che adesso vogliamo dire che in Puglia ci sono code più lunghe che altrove, però mediamente no, lo sappiamo. Assolutamente. Le code ci sono da tutte le parti. Quanto si aspetta per fare? Sono, come dire, una costanza, ecco, facciamo un esempio, che ne so, il panorama italiano. Lei ha detto, un esempio, un attacco, una risonanza, un esame di questo, di un accertamento di questo tipo, quanto ci vuole mediamente? Ma, mediamente occorrono dai 3 ai 4 mesi di attesa per eseguire appunto questi esami complessi. Noi abbiamo provato ad organizzare il lavoro in maniera differente, e quindi attivando il personale, sia i medici che ovviamente il personale di compatto, dalle 20 alle 24 nei giorni feriali e anche nei giorni festivi, fine settimana, sabato e domenica. Di solito queste unità operative sono ferme, garantiscono esclusivamente le urgenze, e invece da questo fine settimana i cittadini anche di domenica mattina e di domenica pomeriggio potranno essere chiamati e quindi sottoposti agli esami. Quindi lei sì, dica. No, lei stava facendo riferimento agli accordi che avete dovuto fare col personale. È stato un lavoro anche, diciamo, particolarmente faticoso, perché rivedere in tempi assai rapidi anche la cultura, diciamo, no, dell'organizzazione di un servizio non è semplice. Invece devo dire con grande onestà intellettuale che gli operatori tutti hanno aderito a questa nostra sperimentazione, e in modo particolare i cittadini, che pullulano nelle ore serali, nelle corsie e nelle sale di attesa. Quanto, che percentuale devo dire che moltissimi hanno accettato veramente di buon grado. Meno male. Penso ai lavoratori autonomi, ai libero professionisti, che alla fine della loro giornata di lavoro si organizzano e quindi molto volentieri raggiungono gli ospedali e quindi soprattutto se si può far prima, appunto, si possono accorciare i tempi di attesa. Quanto, che percentuale di tempi di attesa avete fatto un calcolo? Cioè nella ASL dove si applica questa cosa qua, sì, se prima si aspettavano 4 mesi per fare una TAC, con questo sistema a che tempi di attesa si può scendere per far capire i benefici di questa cosa? Contiamo di azzerare le liste di attesa entro la prossima primavera, più tardi all'inizio dell'estate. Sì. Che i primi ad essere chiamati sono stati anticipati di ben 3 mesi, quindi vi è stata una ricaduta importantissima. I cittadini si recavano in ospedale incuriositi, molti hanno pensato che questo invito non fosse una cosa seria, e invece poi con grande sorpresa hanno trovato appunto un'organizzazione molto puntuale e molto efficace, devo dire. Quando abbiamo pensato di fare questo approfondimento in redazione, io ho detto subito: beh, questa comunque è una bella notizia, perché appunto si accorciano i tempi di attesa. È giusto che queste macchine super specialistiche, super tecnologiche, funzionino forse anche la notte addirittura. Però c'è stato qualcuno che ha detto: ma la nonna di 85 o di 90 anni la devo portare a mezzanotte a fare la TAC, quando probabilmente la nonna non è operativa? Guardi, come si fa? Le sembrerà strano, la maggior parte dei pazienti che erano lì in attesa erano persone anziane, accompagnate dai loro figli, dai loro parenti, che liberi da impegni lavorativi erano ancora più disponibili ad accompagnare i propri congiunti in ospedale per essere sottoposti agli esami. È stato un impatto, posso dirlo, assai piacevole dal punto di vista anche, del gradimento dei cittadini rispetto a questo. Evidentemente la forte motivazione di vedersi accorciati i tempi e anche forse un senso di novità che non fa mai male, non guasta mai. Senta, voi siete partiti, credo aver capito bene, in provincia di Foggia come sperimentazione. La prossima settimana saremo pronti anche in altre province, nella BAT, nella provincia di Taranto, nella provincia di Lecce. La provincia di Foggia ha tagliato per prima il nastro, perché ha avuto la possibilità di chiudere prima gli accordi sindacali, ma si tratta per davvero di qualche altro giorno e poi avremo tutta la Puglia contaminata da questa novità, da questa innovazione. Senta, un'ultima cosa, giustamente lei faceva riferimento a questi accordi sindacali, perché dovete coinvolgere i dipendenti, gli infermieri, i medici in questi nuovi orari. Questa operazione avrà un costo, ha un costo, avete stimato che percentuale rispetto ai costi della sanità aggiuntiva può avere rispetto poi a quello che invece abbiamo già detto essere i risultati attesi, che sono molto positivi? Chiaramente questa operazione non è a costo zero, non potrebbe esserlo, però il vantaggio è assolutamente rilevante. Tenga presente che quando un paziente deve attendere un tempo che viene ritenuto insopportabile, molto spesso va fuori regione, molto spesso quindi Si perderebbe la prestazione. Concretizza appunto un incremento della mobilità passiva. Invece con questo modello organizzativo noi certamente conterremo la mobilità passiva. Abbiamo preventivato una spesa di 11 milioni di euro. In tutta la regione? In tutta la regione questo? In tutta la regione ovviamente, con risorse del Fondo Sanitario Nazionale, ma anche abbiamo pensato di utilizzare il 5% della quota parte che ogni medico versa quando svolge la libera attività professionale. Quindi, non solo risorse pubbliche, ma anche il contributo previsto ovviamente dalla norma, che gli specialisti versano nelle casse della Regione Puglia quando effettuano la libera professione. Quindi un mix di risorse che ci consentirà certamente di migliorare la performance del sistema, di rendere esigibile un diritto, quello ad una diagnosi in tempi, diciamo, accettabili, sì. Ma anche abbiamo pensato di utilizzare questo modello organizzativo come un'occasione per contrastare le nuove povertà. Ormai gli italiani, ovviamente anche i pugliesi, rinunciano addirittura a curarsi quando devono sottoporsi ad esami costosi, e non effettuare un esame in ospedale significa ovviamente pagare per intero la prestazione. E a fronte anche di questo dato che purtroppo è in crescita nell'intero paese, abbiamo avuto una ragione in più per questo investimento, che certamente avrà un suo ritorno per la salute dei cittadini, ovviamente. Ce l'auguriamo, grazie, in bocca al lupo a Elena Gentile. Grazie a voi, buon lavoro, buona giornata. Assessore al welfare della Regione Puglia, avete sentito la notizia? È questa, è partita la sperimentazione per abbattere le liste di attesa, è partita a Foggia, ma si estenderà anche in altre province della regione, e una delle cose la più importante che è prevista è attivare, insomma, le macchine per gli esami anche negli orari notturni, il sabato e la domenica. 800 24 00 24, anche su questo vogliamo i vostri interventi, cari ascoltatori. E poi, che cosa ha reso bella la vostra settimana? In palio anche oggi ci sono i biglietti della mostra di Munch a Genova. Tra poco. Si può fare cronache da un paese migliore. Buongiorno anche a Carlo Gabardini. Ciao Carlo. Buongiorno, ciao Alessio. Ben ritrovato. Grazie mille, sono contentissimo di essere a Milano. Avevo paura di non farcela, che stanotte in treno è stata durissima. Sei sempre in viaggio, adesso parte l'invettiva contro Trenitalia. No, invettiva è esagerato, diciamo che mi sono sfogato ieri su Twitter. Cosa è successo? Mi segue su Twitter. Ma niente, avevo un biglietto di un Frecciarossa che, da quello che ho capito, aveva già subito un cambio, perché l'aveva fatto la produzione, perché dovevo partire alle 18:20, stavo girando un film a Roma. Poi invece le riprese sono andate più avanti, quindi hanno fatto un cambio di questo biglietto. Poi sono arrivato in stazione però con tipo un'ora e mezza d'anticipo, quindi sono andato dal capotreno, gli ho detto: senta, posso salire su questo treno qua, perché parte adesso, partiva dopo 5 minuti. E lui assolutamente ha detto: no, non si può, poi vada a fare la coda alla biglietteria. Giustamente, quindi vado alla biglietteria dove c'era tipo un'ora e 40 di attesa. Ma la vera cosa, questa cosa qui del cambio dei biglietti, è una mia vecchia battaglia che faccio da un sacco di tempo, perché la cosa che non capisco è che io ho un biglietto sul treno delle 20:20, se arrivo al treno delle 19, a loro, se fossero, diciamo, un'azienda interessata al profitto e non un'azienda che ha dentro di sé un po' attento il fatto che sono che dici, statali, no, ci però è così. Subito la querela, se no, però dovrebbero essere molto contenti di farmi salire sul treno delle 19, di modo che lì si libera un posto su quello delle 20:20, che è un biglietto che possono ancora vendere. Quindi sto parlando semplicemente di una regola semplice di economia, cioè non ha senso, non è che io sto cercando di fregarli se salgo però su un altro treno. Però questa cosa che stai dicendo forse ha a che fare col fatto che non si può più viaggiare in piedi, che non ci sono posti a sedere. No, ma il posto c'era. Il posto, no, la prima cosa che ho chiesto è il posto. No, è il problema che tu non puoi fare due cambi perché il biglietto era economy. Al di là che il biglietto economy era, costava tipo 79 euro, ma per il primo cambio già costava 100 euro, quindi economy ma neanche troppo. Però io ne faccio semplicemente una regola di, diciamo, di mercato, è questo. Cioè, che se non avessi dentro nel cuore il fatto che vieni da un'azienda che in realtà è statale e praticamente c'è il regime del monopolio, tranne Italo in questo momento, è ovvio che ti comporti così, ma è un po' folle da parte loro, è questo. Comunque che non ti è andata bene, perché hai visto che ieri è successo di peggio sui treni, c'è stato un treno che è deragliato. No, ma infatti non mi lamento, ho semplicemente un po' sfogato questa cosa. E tra l'altro devo dire che Trenitalia mi ha risposto su Twitter dicendomi come possiamo aiutarti, però come potete aiutarmi? In nessun modo, a parte che quello è veramente il momento dove ti dici: beh, ma cosa serve Twitter? Nel senso che mi dicevano: come possiamo aiutarti? Poi passavano 5 minuti, intanto io ho perso un treno, ho perso quello delle 19:20, insomma sono arrivato a Milano a mezzanotte passata. Notizie? Cosa ci porti notizie. Oggi? Notizie. Allora, in realtà più che notizie, oggi c'è una storia che mi ha molto colpito. Ed è questa, che è anche una notizia ovviamente. Il 16 gennaio, cioè l'altro ieri, è morto all'età di 91 anni Hiro Onoda. Adesso i giapponesi mi perdoneranno, spero, per la mia pessima pronuncia giapponese. E chi era Hiro Onoda? Onoda era l'ufficiale delle forze speciali dell'esercito imperiale che era stato mandato sull'isola di Lubang alla fine del 1944 con la missione di impedire lo sbarco americano. Ovvero, se questo fosse avvenuto, Onoda aveva l'ordine di non arrendersi, di non togliersi la vita in nessun caso e di continuare a compiere atti di sabotaggio contro il nemico fino a che non avesse ricevuto altri ordini da un superiore. A questo punto che cosa succede? Gli americani poi sbarcano a Lubang il 28 febbraio del 45 e tutti i giapponesi si arrendono sull'isola, tutti meno Onoda e tre suoi compagni, che invece si ritirano nella giungla e iniziano una sorta di guerriglia. Poi a quel punto, il 15 agosto del 45, finisce la guerra, alla radio, appunto la radio, visto che siamo in radio, è bellissimo perché si sente diciamo una voce che per tutti i giapponesi comuni è una voce nuova, che non hanno mai sentito, perché è la voce dell'imperatore Hirohito che annuncia l'impossibilità di continuare la lotta, ordina di sopportare l'insopportabile, ovvero la resa. Questa voce qua, siccome appunto non l'hanno mai sentita e soprattutto è anche una voce che parla in maniera colta e anche molto contorta, sì, diciamo un po' da politico, il tenente Onoda quindi un po' non capisce e un po' comunque non ci crede a questa cosa, tanto che nell'ottobre del 45 di nuovo Onoda e i suoi compagni trovano anche dei volantini che dicono che la guerra è finita il 15 agosto, però siccome erano scritti in un giapponese approssimativo, diciamo, loro cosa pensano? Dicono: no, questi sai cosa sono? Sono gli americani che fanno finta, quindi è il nemico che per convincerci ad arrenderci ci mandano questi volantini. E quindi loro continuano i loro attacchi armati semplicemente di vecchi fucili, si dice otturatore girevole, ho letto così precisamente, e continuano la loro battaglia. A questo punto cosa succede? Nel 1950 uno di loro muore, nel 1950 uno di loro si arrende perché dice basta o no, va bene, però dopo io non anni. Ce la faccio ma più. Ma c'è qualcuno che va avanti, come questo nostro protagonista che va avanti parecchio. Esatto, un altro muore nel 54 uno dei suoi compagni, dopo muore un altro dei suoi compagni e resta solamente Onoda che continua da solo la sua battaglia fino al 20 febbraio del 1974, quindi quasi 30 anni, per 29 anni. E lì succede una cosa bellissima. È pazzesca questa storia. Norio Suzuki, che è un giovane viaggiatore giapponese, riesce a trovare questo nascondiglio perché lui continua a combattere la sua battaglia. Quando arriva lì, lo stesso Onoda dice: questo hippie arrivò sull'isola e mi chiese se volevo venire via. E che cosa gli risponde Onoda? Dice: guarda, io non posso venire via. Finché non ho un ordine di un mio superiore, io da qua non mi muovo. Suzuki torna in Giappone. E potevano dargli un ordine. E questo avviene, questi sono giapponesi, eh? E quindi? Suzuki torna in Giappone, va a cercare Yoshimi Taniguchi, che era l'allora ufficiale che comandava l'unità di Onoda, che nel frattempo non è neanche più un militare, ha aperto una libreria, lo convince ad andare con lui fino all'isola di Lubang, e lì lui ordina a Onoda di cessare le operazioni militari. Solamente quando ha l'ordine dal proprio superiore diretto, allora Onoda dice: va bene, nel marzo del 74 consegna la spada, consegna il fucile e dice: mi arrendo. Quest'uomo qua è morto. È morto il 16 gennaio del 2014. E volevo, mi sembra che in un momento in cui Renzi parla di coerenza, dicendo che andrà a incontrare Berlusconi, ma soprattutto in un momento in cui vediamo tutti i nostri politici che non credono minimamente, diciamo, nel proprio mandato, in qualche modo noi siamo i superiori dei politici, che abbiamo dato mandato ai politici e quindi ognuno cambia casacca per due bruscolini oppure per milioni di euro a seconda, ecco, mi sembra che una storia così sia bella per riflettere. Una storia di coerenza, una storia incredibile, è davvero pazzesca. Oggi ce l'ha anche il Messaggero, sempre in prima pagina. Sì, sì, no, ma in realtà ne hanno parlato molto e un po' tutti, anche perché poi lui si dice che sia il penultimo ad essersi arreso, perché ce n'è un altro che si è arreso dopo. Ancora dopo. Che però è una storia diversa. Forse è una storia a quel punto uno... hanno fatto a gara per entrare nella storia per chi era l'ultimo. Però ma questo lui ci credeva moltissimo, perché dopo lui, Onoda, in realtà la storia avanti ovviamente non ve la posso raccontare tutta, lui ha scritto una bellissima biografia, sì. È andato in Brasile, ha aperto un... poi è tornato in Giappone. Giappone, ha iniziato a fare dei campi per la, dove insegnava la sopravvivenza, è tornato addirittura sull'isola di Lubanga a donare dei soldi, perché lui comunque ha continuato la sua guerra, cioè nei suoi 30 anni hanno ammazzato più o meno 30 persone, questo va detto, diciamo, per completezza, che devo dire che forse per un soldato in guerra non è neanche una media altissima, un morto all'anno, però insomma. Ma in tempi di pace la media dovrebbe essere zero. Esatto. Il problema esatto. È questo. Una storia che ha a che fare molto anche con il carattere, ovviamente, dei giapponesi. 800 24 00 24. Cominciamo però a sentire qualche ascoltatore. No, è caduto l'ascoltatore, Antonio. Allora ne sentiamo un altro. Si è arreso? Ma come? Qua c'è gente che non si arrende per 40 anni e ti arrendi perché... Per pochi secondi. Perché Radio 24 non richiama? Allora, vediamo se troviamo qualcun altro. Nel frattempo altre notizie? Ma una notizia bella che mi è piaciuta è che in Francia c'è questo videogioco sulla vicenda di Hollande. Quindi praticamente hanno già fatto un videogioco. Sì, un bellissimo, cioè un videogioco molto semplice, però sì. Dove c'è questo personaggio che è chiaramente Hollande sul motorino e tu devi aiutarlo a raggiungere la sua amata, la sua esatto. E gli ostacoli sono ovviamente altri motorini, sono giornalisti, sono personaggi dei servizi segreti, la sua prima moglie, la sua attuale compagna che è anche la first lady francese, perché lì adesso c'è questa questione che lui deve decidere. Bellissimo. Se la sua first lady rimane quella, sarà quella nuova, sarà la prima, non si capisce, però mi sembra che un videogioco molto divertente. Mi sembra che il legame con Valérie sia già quasi ufficialmente finito, così sì, però, scrivono i giornali. Non lo so, perché il giornalista sei tu, appunto, io sono lo stagista, però in realtà mi sembra di capire che lui deve decidere se lei continua a essere la première dame o meno, perché c'è proprio una questione un anche politica, c'è un protocollo, c'è una questione anche di soldi, nel senso che se non è la première dame lo Stato francese la deve scaricare e non paga i taxi, direi. È brutto dirlo, però è così. Abbiamo Antonio da Napoli, da Milano l'abbiamo recuperato, sì. Buongiorno. Buongiorno Antonio. Non mi ero arreso comunque, la caduta lì. Scusami, non volevo insinuare nulla. Ok, prego. Ascolti, volevo chiederle una cosa a proposito dell'assessore, ha parlato prima, adesso non è più in trasmissione, quindi non posso chiederlo direttamente. Lei ha parlato di 11 milioni di costi per la regione Puglia per fare questi esami anche di notte, no? Sì. Poi volevo chiedere se nello specifico chi è che fa questi esami, che medici ne assume e quanto vengono pagati? Perché lavorano di notte, lavorano di giorno, che costi abbiamo rispetto agli standard di un medico che lavora normalmente in va bene radio. Antonio, noi dobbiamo lasciarla qua perché abbiamo il giornale radio. Si può fare cronache da un paese migliore. Buongiorno cari ascoltatori, buongiorno da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini, buongiorno a tutti. Ben ritrovati, 800 24 00 24, andiamo subito con il numero verde, con i vostri interventi. Sentiamo chi ci chiama, Stefano da Bari. Vi ricordo che anche oggi potete raccontarci che cosa ha reso un po' più luminosa, un po' più bella la vostra settimana, e racconti più belli come sempre vincono una coppia di biglietti per la mostra di Edvard Munch a come si pronuncia poi? Munch. Munch. Genova, Palazzo Ducati. Munch. Sì, alla tedesca è più Munch. Sì. Tu hai studiato tedesco, sì, e signore, quindi non lo sai. Esatto. Va bene. Chiamateci perché siamo curiosissimi. È sempre il momento più bello quando chiamano e dicono perché la settimana è bella. Sì. Le belle notizie sentite da chi ha vissuto la bella notizia sono ancora più belle delle belle notizie date. E poi spesso scovate. Sono cose anche così curiose, piccole della vita personale. Stefano da Bari, buongiorno. Ciao, buongiorno ragazzi. Buongiorno. Io faccio grazie il farmacista. Per i ragazzi. Figurati. Io sono un ragazzo, 33 anni, faccio il farmacista a Bari. Sì. E ho sentito l'intervento dell'assessore al welfare della Regione Puglia. Io non so come la situazione in Foggia, ma credimi, a Bari è completamente diverso. Noi abbiamo prenotazioni CUP che io faccio tutti i giorni al 2015. Sì, perché lei, faccio un piccolo inciso magari per chi non ha sentito, l'assessore, e anche per me direi, così che io non capisco niente se no. L'assessore Elena Gentile, l'assessore al welfare, diceva che ci sono liste d'attesa. Io le ho chiesto quanto sono lunghe le liste d'attesa, per quanto tempo si attende per fare un attacco, una risonanza, un esame. Lei ha parlato di 3-4 mesi. No, e tu ci stai dicendo invece che sono anche molto più lunghe. Per quelli che sono i controlli, sì. Per esempio per visite mammarie, ecografia mammaria o visita senologica, sono al 2015. Quindi siamo... sono ancora più lunghe. 2016. Da farmacista, cosa ne pensi di questo esperimento di far funzionare le macchine per gli esami anche la notte, il sabato e la domenica, per raggiungere che questo risultato? A lavorare con persone anziane che non vanno al di là del loro quartiere. Sì. Quindi è difficilissimo rendergli la disponibilità al di là della loro zona di interazione. Mm-hmm. Quindi se tu gli dai un appuntamento alle 22:30, non hanno badanti che li accompagnano. Mm. Non sono reattivi e non sono disponibili, quindi la vedo molto difficile. Però magari si mandano quelli più giovani a quell'ora e gli altri, anche perché voglio dire, se la scelta è fra a mezzogiorno il 6 marzo del 2016 oppure dopodomani alle 22:30, uno magari si organizza. Eh sì. È difficile. Eh sì, va bene. È un esperimento. Stefano, grazie. Non è facile, sicuramente questo cambio di rotta, di mentalità, di organizzazione, ci vogliono accordi con i sindacati, tutto quello che volete. L'assessore ce l'ha dipinta più positivamente, ha detto che c'è stata una buona risposta all'inizio, diceva che c'era molta gente che andava anzi di buon grado. Ora magari la verità starà nel mezzo tra quello che dice lei e quello che dice questo farmacista di Bari. Ma poi mi sembra molto buono, perché questo farebbe anche sì che in ospedale ci sia un sacco di personale anche per fare quel tipo di esami, anche di notte, che di solito, lo dico per esperienza personale, come tu ben sai Alessio, perché ogni settimana ne combini una, un motorino. Poi esatto, un mesetto fa in realtà poi mi sono ritrovato alle 4 del mattino dopo essere caduto col motorino a fare un attack, ed è ovvio che in quei momenti lì è difficile, che devi chiamare il tecnico, il radiologo. Andrea da Prato, buongiorno. Buongiorno. Io purtroppo devo togliere un po' di entusiasmo da questo discorso. Io posso dire soltanto che secondo me le liste d'attesa ci sono semplicemente perché sono l'unico modo esistente ad oggi per contenere la spesa sanitaria. Quindi se finora non è stato fatto le sacre risonanze di notte, semplicemente perché comunque costerebbero e sì, abbasserebbero le liste d'attesa, ma semplicemente aumenterebbero enormemente i costi. Quindi non è che hanno scoperto l'acqua calda a usare le attrezzature della notte. Invece secondo me hanno scoperto proprio l'acqua calda, perché è una cosa che era lì sotto gli occhi di tutti, ma non l'avevamo mai fatta. Ma è una cosa fattibile, no. Ma il problema per cui la domanda è perché non è stata fatta negli anni precedenti? C'è un motivo semplicissimo, perché utilizzare queste attrezzature anche la notte in ogni caso aumenta enormemente la spesa sanitaria. E quindi è il motivo per cui non è stato fatto, per non aumentare la spesa sanitaria. No, ma non ho capito, mi scusi, le faccio una domanda forse stupida. Lei dice il fatto che le prenotazioni siano così a lungo termine è per contenere la spesa. In certo, che senso? È l'unico modo attuale con cui si può contenere la spesa sanitaria. Ma per disincentivare che la gente faccia gli esami? Disincentivare le persone a servizio della struttura. Beh, ma non può essere però con dei ritardi che uno disincentiva, nel senso che può essere col fatto che ci sia. Purtroppo è così. Io le dico, guarda, io sono un medico, lo vedo tutti i giorni. No, ci mancherebbe. Il motivo per cui le persone poi alla fine vanno a finire nel privato, spendono dei loro soldi, è perché comunque nel pubblico trovano prenotazione a un anno e mezzo o anche, e quindi vanno e questo è il modo più semplice, più banale e anche più, diciamo, più falso da parte dei politici, perché a questo punto il politico, nel momento in cui ti dice io ti metto a disposizione ce l'hai fra sei mesi. Ma scusi, però non dovreste essere voi medici a disincentivare l'eccessivo ricorso agli esami diagnostici non giustificato? Dovrebbero essere i medici a disincentivare il ricorso, esatto, c'è cioè il criterio dell'appropriatezza che dovrebbe essere seguito, ma non è che l'appropriatezza, cioè il fatto che si faccia l'esame giusto al momento giusto e non si vada per questo forza. Però riguarda voi medici, ma come la mettiamo con le lunghe liste d'attesa? Ha sentito l'ascoltatore di prima da Bari che diceva che per certi esami ci vuole addirittura più di un anno, nel frattempo normale, può succedere di tutto, insomma, se uno ha un problema per un esame al seno più o meno i tempi sono quelli, non è che sia un problema Però la notizia mi sembra buona, mi scusi, perché se capisco bene lei dice siccome è la spesa sanitaria per contenerla io faccio delle lunghissime liste d'attesa di modo che la gente vada al privato, certo, nel momento che invece tra gli addetti ai lavori questa cosa è arcinosa, soltanto si fa a bere in giro che le liste d'attesa sono dovute al fatto che non abbiamo abbastanza orario, no, non è che abbiamo orario di lavoro delle sacche risonanze, è che costa molto di più, non è che io se lavorando la notte lavorano gratis queste attestature. Ho capito, mi sembra un buon passo verso il fatto di riuscire a farle invece in una struttura pubblica invece che privata. Allora, i casi sono due, o loro non sanno gestire la sanità, perché se c'era modo di utilizzare meglio le macchine, come in qualsiasi industria, se io ho le macchine e posso utilizzarle proficuamente la notte, faccio i turni di notte. Allora, se questo finora non l'hanno fatto, o perché sono incapaci loro, o perché non era... Ma, no, ma mi scusi, guardi, però posso Andrea, dire solo una cosa: non è che il cioè il fatto che uno, cioè, è come il salto alla Fosbury, dal giorno prima nessuno sapeva fare lo salto alla Fosbury, no, non vuol dire che allora sia un errore. Ci vuole uno scienziato per capire. Esatto, guardi Andrea, il punto, grazie comunque per aver chiamato, il punto è proprio questo: se non si è fatto fino ad ora io non lo so perché. Ma non è una, però... non è una scusante perché non sia una buona idea, una esatto, volta che uno inventa una buona idea, dal giorno prima non esisteva quella buona idea, non è che uno può dire, siccome non esisteva ieri è una cattiva idea, e allora è tutto, è così, anche è un la cambio stampa. Di passo che ha un costo, l'assessore gli abbiamo fatto la domanda, ha risposto 11 milioni di euro, anche per rispondere all'ascoltatore di prima, è un investimento che la regione fa, fra l'altro non solo la Puglia ma anche il Veneto per esempio, quindi anche regioni politicamente gestite da schieramenti politici diversi e opposti, proprio per ottenere questo listo di questo risultato di accorciare le liste di attesa, insomma i tempi di attesa, e quindi è tutto alla luce del sole, poi giudicheranno le gli TAC, utenti, insomma, direi che le giudicheranno TAC. Le TAC, esatto. Traffico. Si può fare cronache da un paese migliore. Ma chi non è barca della mani in vacanza, le Seychelles sotto il fuggio e mattonella, magna mani e bustarella. La patente spugliare, le fanni festine, vinde ville, se pazziene, quagli uccelle. Se trapiante nei capilli, buchinare una cannella, vanno tutte cose belle, cravate marinella, champagne che darà, la piscina e mozzarella, panettone e spugliatelle, che canzona una picella. Fanno i tuffa con fanille, noi facciamo tarantelle, tarantella va gamba. Siamo naturalmente in Campania, mentre il governo ha dato parere favorevole all'impiego dei militari per andare nella terra dei fuochi tra Napoli e Caserta, per controllare un po' per la situazione. Per fare fuoco, diciamo, giustamente. Per fare fuoco, per dare fuoco una volta per due. No, dare fuoco no, che inquina, certo. Me l'hai insegnato tu, Alessio. Verrebbe da dire, insomma, a giochi fatti, cioè chiudere la stalla dopo che i buoi sono scappati, perché andare a controllare adesso la terra dei fuochi, che è già stata inquinata negli anni scorsi, non è che ci sia molto da controllare. C'è la questione dei roghi, che va limitata, sì. C'è la questione di non aumentare la quantità di rifiuti interrati. C'è il tentativo di cambiare la situazione. Soprattutto diciamo. Di cambiare la situazione. Mentre avviene tutto questo, e in attesa anche che vengano bonificate queste benedette terre dei fuochi, c'è chi decide di puntare sulle eccellenze campane, i prodotti agroalimentari della Campania, che insomma prima di questa vicenda erano all'apice, erano noti nel mondo, lo sono ancora e speriamo che lo saranno soprattutto nel futuro. Qualcuno ha scritto sulla stampa locale una risposta in salsa campana a Italy, e noi abbiamo convocato il regista di questa operazione, Eccellenze Campane, un nuovo store aperto a Napoli il 16 gennaio, Pasquale Buonocore, buongiorno. Buongiorno. Buonocore, lei ha alle spalle un passato imprenditoriale di un certo livello, ci dica così in due parole il suo curriculum intanto. No, ma il curriculum è questo, che avendo sempre una voglia all'avanzamento, sì? Ogni 7 anni ho cambiato lavoro, per cui mi sono interessato sempre e prevalentemente alla valorizzazione delle risorse strategiche attraverso il marketing sia tattico che strategico, però ho fatto sempre questo in un discorso che preferiva la globalizzazione. Poi ci siamo resi conto che bisognava passare da esogeni a endogeni, ovvero dobbiamo ognuno di noi in un momento così particolare, sì? Dovevamo individuare le nostre peculiarità e farle crescere. In Campania sta parlando della terra del fuoco. Sì. La terra dei fuochi è il 5% del territorio campano. Sì. L'altro 95% è la terra del buono. La terra del buono però è costituita da tanti microorganismi produttivi di super eccellenza, sì, che per la scarsa propensione di noi del sud a fare gruppo, a fare coesione e essere estremamente individualista, non si sono mai raggiunte le masse critiche sufficienti per poter controbattere e poter presentarsi in maniera violenta, come è stata violento l'attacco al tallone d'Achille per meno del 10% del nostro territorio. Ho capito, lei è partito in quarta, mi sta tratteggiando quasi la storia della Campania, ed è giusto che sia così perché abbiamo messo insieme tanti argomenti, però andiamo intanto al sodo. Avete inaugurato il 16 gennaio, è così? Abbiamo inaugurato il 16 gennaio. abbiamo avuto 12.000 persone, sì, che sono 12.000 persone che ci sono venuti a visitare, sì, ieri ne abbiamo avuti 10.000, per cui c'è una voglia dentro, quello che ho verificato in questi giorni, c'è una voglia di riscossa dentro, si ha bisogno di scosse come questa, perché tutti quanti hanno condiviso questi piccoli artigiani, quanto il nostro è un contenitore di imprese. Ecco, ma cosa si trova venendo dentro il negozio, lo store? Si trova dal pomodoro, si chiama... del Piennolo, il San Marzano d'Opple, sì, Alici di Cetara, abbiamo i fagioli di Controni, i ceci di Cicerale, le giocciole di Giffoni Vallepiano, il San Marzano d'Op, e più ne ho, abbiamo circa 700 prodotti molto specifici, però purtroppo di nicchia, perché sono fatti da contadini o da piccole micro imprese, sì, che artigiane, che mettono insieme il suo prodotto. Il fatto che poi questi piccoli prodotti una volta erano affidati a filiere lunghissime, arrivavano a prezzi sul mercato abbastanza elevati, sì, però a chi li produceva gli rientrava molto poco, i figli hanno abbandonato queste aziende. Invece voi avete accorciato la filiera in qualche modo? Accorciato la filiera e avendogli dato visibilità diretta, sì, nel contenitore. L'obiettivo che ci poniamo è di far tornare questi ragazzi a innamorarsi dell'azienda dei padri. Ecco, ma a quanta gente intanto date lavoro? Giusto per... In questo momento noi qui abbiamo circa 200 persone. Mm. 200 persone che, di cui 40 i servizi, sì, ma 160 sono le prime microaziende con i produttori, in quanto noi produciamo anche direttamente in loco, perché il miglior marketing non è quello sparato e strillato, ma quello che si può toccare con le mani vedendo la produzione. Ecco, quindi, ma a proposito del toccare con mano, della produzione, no? Per chiudere il cerchio rispetto a quello che abbiamo detto prima, lei ha detto solo il 5% delle terre campane sono la terra dei fuochi, il resto sono terre buone, ma voi come fate a controllare questi prodotti? Cioè, che tipo di certificazioni, allora, incominciamo date, a dire di sicurezza alimentare, allora, date? Allora, parliamo del fenomeno che più colpisce, frutta e verdura. Frutta e verdura, c'è un istituto di certificazione inglese che è venuto a vedere i prodotti e li ha garantiti. Abbiamo tre istituti nazionali che stanno controllando e certificando i nostri prodotti. E che istituti sono? Guardi, i nomi non me li ricordo perché li cura un altro, però il concetto che sto esprimendo, sì, che poi sono esposti i certificati degli istituti all'ingresso con grossi cartelloni, perché i nostri cartelloni pubblicitari non parlano di promozione, non parlano di niente, parlano di rassicurazione, di sicurezza. Tant'è vero che nel mese di febbraio facciamo il primo congresso qui, in quanto abbiamo un'aula magna, sì, facciamo il primo congresso sulle frodi alimentari organizzato dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste, Servizio Antifrodi. Ecco, ma la definizione di essere, diciamo, la risposta campana di Italy, vi piace? C'è concorrenza? No, Italy è un'altra cosa. Italy è un'altra cosa, perché Italy basa sul gigantismo propositivo prevalentemente di tutta Italia, ma più specificamente del Piemonte. Quindi Italy fa un discorso. Beh, insomma, non è vero, perché i vari Italy nei vari punti d'Italia propongono prodotti locali anche. No, ecco, sì, però mentre per esempio, sì, della Campania in Italy c'è il 10% e va bene, c'è il 60% di prodotti di altro territorio, che va bene perché va nello spirito che stiamo portando avanti noi, l'endogenia, il territorio. Quindi qua noi, da noi sono assolutamente vietati i prodotti fuori campagna. Senta, ma da quando siete partiti con questo progetto, che è stato appunto inaugurato due giorni fa, sì, probabilmente si parlava meno dell'emergenza della terra dei fuochi. Questo fatto di nuovo che si è tornati a parlare, con tutte le preoccupazioni che ci sono, a volte anche allarmi ingiustificati, ma insomma, sa com'è, i consumatori sono allarmati e ne hanno anche ragione, visto quello, le frodi alimentari anche che ci sono state, anche se questo è un altro capitolo. Avete registrato, come dire, più timidezza, più paura sul mercato, a parte che avete aperto da due giorni, quindi forse non avete ancora... No, per questi due giorni abbiamo dei test di circa 22.000 persone, per cui... Beh, c'era l'interesse sulla nuova apertura, ma secondo lei nel mercato c'è più paura di prima rispetto ai prodotti campani? Per la verità ci sono due tipologie di comportamenti. C'è una tipologia di comportamenti di quelle che praticamente sono gli hard discount e la gente incomincia un po' a sospettare, perché per fare i prezzi buoni ci si rivolge a prodotti non selezionati, per cui lì c'è un po', diciamo, nel prezzo di base c'è molta paura, perché si può immaginare che molti dei prodotti a bassissimo prezzo possano provenire da quei territori, mentre invece nel segmento medio alto, dove c'è un'informazione più di quanto noi stessi potessimo immaginare per il buono. Poi c'è un'altra cosa importante: in ognuno di noi ci sono le due anime, le anime di Caino e le anime di Abele. Se c'è del male ci sta anche del bene, è evidente, i giapponesi sono le forze yin e yang, e quindi in ognuno di noi poi c'è sempre la speranza nel subconscio che, di voler migliorare le cose. E quindi io le dirò che ho notato proprio in questi giorni che sto in mezzo al pubblico a sentire, a parlare, che c'è una voglia mostruosa al senso di rivalsa contro questi attacchi che speculativi da parte di chi più non può combattere con la qualità, ma utilizzare in maniera mistificatoria i nostri nomi che caratterizzano la campagna. Però vi siete fatti anche un po' di male da soli nel passato, e questo bisogna dirlo. No, ma anche nel presente. Ma Carlo Gabardini le fa una domanda. Le volevo chiedere una cosa, visto che ha parlato di discount. I prezzi come sono lì? I prezzi, diciamo, se noi vendiamo Mercedes è il miglior prezzo della Mercedes. Ecco. Se noi vendiamo Ferrari è il miglior prezzo della Ferrari. No, è chiarissimo, ma vendete solo Mercedes e Ferrari? Nel senso che se uno ha vuole mangiare delle cose molto buone, però può permettersi solamente allora, una Twingo? Le faccio un esempio. Lei può mangiare delle cose stupende e bere del vino fantastico. Guarda che io vengo a trovarla, Ma guardi, io se lei non viene poi io la prendo come un impegno. Lei va bene. La media di spesa è 15 euro mangiando bene. Quindi da lei. No, 15 euro per che cosa però? Cioè per un pasto o per una mozzarella? No, ma non si mangia più a pasti, si mangia a piatti che servono, perché. Sei rimasto indietro, non si mangia più a pasto. Ma come? Parla di tradizione, poi però poi mi dice non si mangia più a pranzo, a pasti. Allora, ma guarda che a mezzogiorno qua non mangio. In altre parti mangiano i panini. Certo. E da noi è vietata la parola panini. Non so, un piatto di mozzarella di bufala con un po' di una caprese. Ma non la deve fare però, perché non è che la mozzarella di bufala, tutta la gente, eppure Napoli che conta, è venuta qua, ha assaggiato la nostra mozzarella e unanimemente hanno detto ma non quanto costa per esempio? La Napoli che conta c'ha i soldi, io mi chiedo, diciamo, la Napoli normale. Anche, allora, quando noi parliamo di chi ha i soldi è un target, però c'è un target di quella classe media che una volta era abituata a sperperare attraverso acquisti inutili. Vabbè, ma insomma, tagliamola, quanto costa una mozzarella di bufala lì da voi? 13 euro al chilo? Certo. Ok. È tanto? È per capire. Gabardini, te ne intendi? No, 13 euro, ma no, non è una mozzarella stupenda. Non è tanto. No. Mi dicono che non è tanto, che la mozzarella è stupenda. Speriamo. A Milano costa di più e quindi vengo a comprarla lì molto volentieri. Appena veniamo a Napoli ci facciamo un salto. Grazie intanto a Pasquale Buonocore di Eccellenze Campane per essere stato con noi. Tocca andarci a provare. Assolutamente. Anche perché questa cosa la regia ci abbiamo la voce della verità, Giorgio De Luca, che è di Napoli, ha detto 13 euro scosto la testa. Vuol dire, non è la voce della verità, però è un insider, scusami, è napoletano. Ma non è un dipendente di Eccellenze Campane. Non so, bisogna chiedere a qualcuno non così di parte. Giorgio da Torino, buongiorno. Sì, buongiorno, grazie per avermi fatto intervenire. Dunque, buongiorno. Io sono un commercialista e di conseguenza ho della contabilità di tanti negozianti che vendono frutta e verdura e tanta gente che praticamente ha anche il mercato. Tutti quanti si lamentano perché mi dicono: guarda che qui c'è la gente che è diffidente, non riusciamo più a vendere le cose, tanto le buttiamo via perché qui c'è scritto prodotto Italia e la gente ti chiede: ma Italia da dove? E allora uno dice: ma lei vuol discriminare? No, voglio garantire la mia salute, voglio essere tranquillo e voglio essere anche un pochettino tutelato. D'altra parte dice: non vedo perché in Italia noi abbiamo dovuto scoprire questa cosa tramite le Iene o Striscia la Notizia, quando abbiamo delle persone che sono preposte a gestire e a controllare queste cose e nessuno ha detto niente, quindi dobbiamo tutelarci da soli. A questo punto c'è la gente che è completamente sfiduciata di tutte queste situazioni, a tal punto che mi stanno facendo fallire anche i negozianti che praticamente vendevano cose di questo genere, perché loro quando trovano una cassetta che arriva da un posto del genere genere già per primi non la comprano, ma non per discriminare sì. le persone. Giorgio, che io hanno credo che grazie, ma credo che poi la differenza la faccia, insomma, il vincolo di fiducia nel negozio dove vai, sicuramente anche le etichette, se è possibile. I consumatori sono sempre più attenti, leggono, guardano, scrutano, si informano. Poi se prendi una fregatura un giorno, il giorno dopo non ci torni più in quel sì. mercato lì. È molto bello che sia un commercialista, nel senso che si capisce bene anche la catena economica, no? Nel senso che se non vende il banco della frutta, poi il suo commercialista giustamente dice: mi stanno facendo chiudere tutti i miei clienti. È giusto, è vero. Cucina mediterranea protagonista anche di questa iniziativa che ci porta in Sicilia. Continua l'impegno della Fondazione per il Sud per il riutilizzo dei beni confiscati alla mafia. Ad Altavilla Milicia, provincia di Palermo, sta per nascere la Scuola Internazionale di Cucina del Mediterraneo, un polo di eccellenza enogastronomico che sorge grazie al progetto Cambio Rotta. Ce lo presenta Davide Ganci, presidente del Consorzio Ulisse. Allora, il progetto Cambio Rotta è un progetto che nasce sul bene confiscato alla mafia ad Altavilla Milicia, in particolare il Consorzio Ulisse, che gestisce questo bene confiscato, ha partecipato a un bando pubblico e l'ha avuto essere aggiudicato, con l'idea proprio di creare un centro culturale polivalente nel territorio di Altavilla Milicia su questo bene, che è un bene, è una struttura bellissima perché ha strapiombo sul mare e che offre, diciamo, tantissime possibilità proprio per esprimere cultura, per esprimere lì talenti del territorio, ma non soltanto, riuscire a fare anche delle attività sociali e culturali che su un bene confiscato, diciamo, difficilmente vengono realizzate. Quest'anno abbiamo presentato un progetto alla Fondazione Sud con l'idea di strutturare una vera e propria scuola di formazione della cucina del Mediterraneo. Diciamo, il progetto è stato valutato positivamente, per cui siamo riusciti a ottenere questo finanziamento che ci permetterà di intervenire strutturalmente sulla struttura, ma anche di formare dei cuochi del territorio, con la presenza di altri cuochi che provengono da circa una decina di realtà del Mediterraneo. Quindi attraverso, diciamo, la cultura enogastronomica faremo delle serate interculturali, riusciremo, diciamo, a fare, almeno questa è l'ambizione, di fare proprio un polo d'eccellenza sulla cucina del Mediterraneo in questa struttura, senza sacrificare, diciamo, comunque l'aspetto del centro culturale polivalente, e quindi cercando anche di realizzare sempre e comunque delle attività culturali e sociali nella stagione, prevalentemente nella stagione estiva, cercando anche di cominciare da quest'anno stesso, ma sicuramente negli anni a venire, dal periodo primaverile fino a quello autunnale. Santi da pregare, si può fare, e da avere tanti soldi da poterseli rubare, si può fare. Oh, io vorrei che chiamasse proprio qualcuno che ha fatto la visita alle 11 di sera, che ha fatto l'attack. Io l'ho fatta, te l'ho detto, mi sono schiantato col motorino sì, apposta. Ma questo non era previsto, diciamo. Ma l'ho fatto apposta per te, non hai capito? Di notte mi sono schiantato col motorino alle 3, alle 5 sono andato a fare l'attack per capire come funzionerà un attack alle 5 del mattino. Funziona bene. 800 24 0024, abbiamo Roberto che ci chiama dalla provincia di Cuneo. Sì, buongiorno. Buongiorno, ciao, buongiorno a tutti. Buongiorno, eccoci qua. Niente, volevo soltanto dire questa cosa riguardo appunto le visite specialistiche effettuate nei orari notturni, sì, che possono orari strani in realtà fino alle 20, 24, dalle 20 alle 24. In passato praticamente si è esternalizzato moltissimo nella sanità, si è dato alle sanità private, insomma, ai laboratori convenzionati, agli ospedali convenzionati, la possibilità appunto di effettuare visite specialistiche pagando solo il ticket, per cui, insomma, da parte del contribuente, da parte del paziente, perché poi tutto il resto lo metteva naturalmente l'ASL. Adesso, poiché si è visto che comunque non basta questo, perché spesso capita che, insomma, si arrivi a agosto, ad aprile addirittura in alcuni settori, e la sanità privata non ha più posti, perché appunto la sanità pubblica non ha intenzione di pagare poi più visite specialistiche rispetto a quelle, insomma, che insomma, ha messo a bilancio, ecco, in realtà non di quelle che sono necessarie, ma di quelle che ha messo a bilancio. Si sta cercando di trovare una soluzione, insomma, e la soluzione, cercano di trovarla, insomma, sfruttando meglio i macchinari, cosa corretta. Quindi, insomma, l'hai chiamato per farci quindi... riepilogo della storia. No, io ho chiamato sì. Semplicemente per dire cosa? Per dire che questa, insomma, è una soluzione praticamente sì? che era naturale, nel senso che non è stato inventato nulla. Però intanto loro ce l'hanno avuta e nessun altro ce l'aveva avuta. Perché fino a ieri forse il motivo era conveniente darla alla sanità privata? Punto interrogativo. Ah, va bene, Roberto, ma vedi come sono però gli ascoltatori. Però intanto è cambiata adesso. Sì. Roberto, però non ho capito se era una critica o no, perché dire che fino adesso non si è fatto, anche se era facile farlo, non toglie nulla al fatto che adesso si stia facendo. Ribadisco, esatto, è come Gutenberg quando inventa la stampa, il giorno prima non c'è, non è che uno dice bella roba, belli i libri stampati con le letterine una per una, che poi io li leggo facili invece che quelli fatti dagli amanuensi, bella idea. Anna Maria, dalla provincia di Verona, buongiorno. È il marito? Pronto? È con la bambina, senta, parlo io, va bene? Sì. Ah, è bellissimo questo, nel senso che aveva chiamato sua moglie e però adesso c'è il bimbo e quindi parla lei? È giusto, allora, ma ci dice la stessa cosa o qualcosa di diverso di quello che voleva dire sua moglie? No, senta, è esattamente quello che deve dire mia moglie. Perfetto, per procura. Devo dire una roba, che non tutte le URSS funzionano male. Mm-hmm. Ci sono anche quelle che funzionano bene. Giusto. Per esempio? Io lo so bene a Verona come funziona. C'è un grande impegno dietro questa roba. Sì. E prima di tutto dipende da come compila il medico l'impegnativa. Se dà una priorità. Ah, ho capito. Allora il paziente può trovare nell'ambito dell'ULS senz'altro la prestazione pronta da fare. Altrimenti bisogna aspettare, ovviamente. Va bene. Io credo che questo, credo che questo da solo non basti. Cioè, non è che basta mettere la casellina urgenza per avere effettivamente. Certo, ci sono delle urgenze. Soprattutto se uno è ricoverato, te lo fanno subito l'analisi. Però è interessante il fatto che c'è tutto quel mare magnum di cose che non sono delle vere e proprie urgenze, ma insomma aspettare un anno per fare una mammografia è troppo, anche se non è un'urgenza, perché sappiamo tutti cosa può succedere in un anno. Però abbiamo sentito anche forse il primo italiano che dice: un momento, non è, mica tutte funzionano male. Poi ormai si chiamano ASL, però forse lì si chiamano ancora USL, io questo non lo so, ma però è bello sentire invece uno che dice: non è vero, da noi funzionano abbastanza bene, da Verona dice non mi sembra che funzionino così male. Adesso andiamo in Abruzzo. Freedom and justice is the melody that let us shine on. If you feel it through the music, we can make this world a better place. Freedom. Andiamo in Abruzzo, per l'esattezza a San Giovanni Teatino, per un caso felice in un paese non grandissimo, e salutiamo intanto il sindaco Luciano Marinucci, buongiorno. Buongiorno a lei. Un caso felice di spending review, queste due paroline inglesi che siamo abituati ormai a sentire accoppiate insieme, un paese di quanti abitanti? Una 13.500 città. Abitanti di notte. Di notte? Come di notte? Lei mi dirà perché di notte, perché chiaramente... Di giorno emigrate per andare a lavorare, cioè... Un distinguo, noi siamo la cerniera dell'area metropolitana. Ah, quindi dormono e poi gravitano sulla città. Di giorno abbiamo la più alta densità di centri commerciali italiana, abbiamo 8 centri commerciali nel raggio di 6 km, più una serie di ipermercati e quant'altro. Sì. E abbiamo l'aeroporto che ha l'accesso su San Giovanni Teatino, l'aeroporto di Pescara. Vabbè, questo è il momento proloquo del sindaco Marinucci. No, ma noi non l'abbiamo chiamata per questo, ma quanto per raccontarci la storia che noi abbiamo giudicato positivamente, felicemente, di questa spending review in salsa abruzzese nella vostra cittadina. Lei è riuscita a risparmiare parecchi soldini chiudendo il bilancio di fine anno, tagliando alcuni dirigenti che lei ha giudicato inutili per una città piccola come la sua, facendo altri magheggi di bilancio, vendendo, quindi dismissioni, una farmacia comunale, a proposito di sanità abbiamo parlato sino ad ora, insomma facendo quello che tutti gli italiani si aspettano che il governo faccia a Roma per quanto riguarda il nostro Stato, insomma. Com'è andata? Certo. Guardi, intanto le dico così, non per continuare con lo spot come lei mi ha detto, insomma, ma io guido dal maggio 2011 un governo di larghe intese ed è un governo composto, tra virgolette governo, ma siamo un'amministrazione comunale di esponenti di vari partiti politici che hanno trovato giusto mettersi d'accordo su un programma amministrativo che comunque è ambizioso per certi versi, o meglio, quando siamo partiti con tante ambizioni, poi ci siamo resi conto che c'è purtroppo un dato fondamentale, il patto di stabilità che strangola tutti i comuni italiani, e il mio in particolar modo, perché se lei pensa che nel primo anno ho dovuto pagare 12 milioni di euro di opere pubbliche che non avevo fatto, e quindi spero opere pubbliche utili. Opere utili sì, sicuramente sì, però si fanno sempre nella considerazione che la spesa corrente è quella che poi alla fine deve partecipare alla gestione di queste opere che sono dei servizi a favore dei cittadini. Senta, adesso poi ci dirà bene che cosa ha tagliato, dove è riuscito a risparmiare, appunto, facendo, insomma, alleggerendo le casse comunali. Però mi incuriosisce questa cosa delle larghe intese. Voi avete fatto un governo di larghe intese nel 2011 per necessità, perché non c'era maggioranza, o visto che siete con meno di 15.000 abitanti, quindi avete una legge elettorale diversa da quella delle grandi città dove è garantita, diciamo, una maggioranza uniforme, oppure per una sorta di adeguamento così al clima nazionale, sindaco? Sì, sì, guardi, noi l'abbiamo fatto in primis perché comunque ci siamo trovati a discutere su degli argomenti che poi ci hanno trovato d'accordo a prescindere dai colori e dall'appartenenza, insomma. Noi consideriamo più una squadra una nazionale che non una serie di partiti, portiamo tutte la stessa divisa e giochiamo nella stessa squadra di calcio. Poi finito il campionato mondiale andiamo a giocare ognuno nei nostri club, ma nel frattempo stiamo facendo un mondiale. Questo è tanto per far capire che cosa è successo. E diciamo che un comune sotto a 15.000 abitanti, comunque l'elezione è sempre diretta del sindaco e quindi potevamo anche fare liste di partito. Sì. Nello specifico c'erano due liste in competizione, erano due liste civiche. Vabbè. Nella mia c'era un'altra rappresentanza di esponenti del Partito Democratico, sì, di sinistra estrema, di centro, di centrodestra, eccetera. Hanno trovato convergenza sulla mia persona e andiamo avanti. Quello che oggi il Movimento 5 Stelle strilla in Italia, noi l'abbiamo dovuto fare prima di ogni cosa per esigenze, perché chiaramente lei sa che la spesa corrente è alimentata dalle entrate tributarie, lo Stato taglia i trasferimenti, Fassino ha detto che il governo dovrebbe restituire le aliquote dei fabbricati D ai comuni, che oggi incassa in toto, e io mi sono ritrovato con meno soldi da parte dello Stato e le prime case che non incasso più, e quindi alcune operazioni abbiamo fatte nel risparmio della spesa corrente con alcuni tagli mettendo. Adesso ci dice tutto, sindaco, adesso ci dice tutto che cosa ha tagliato, perché era il succo di quello che ci interessava, però dobbiamo fare una pausa per il traffico. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Speriamo con sufficiente lucidità. San Giovanni Teatino hanno tagliato diverse spese, tra cui per esempio tre dirigenti, abbiamo detto dismissione della farmacia comunale. Ci racconti lei però, sindaco, Luciano Marinucci, insomma, questa spending review in salsa abruzzese che siete riusciti a realizzare. Guardi, le spiego, al di là delle esigenze di bilancio, sì, le abbiamo fatte nella riorganizzazione del personale, essendo un comune di 13.000 abitanti, e se lei ha dimestichezza, insomma, nelle questioni, tre dirigenze che pesavano intorno agli 280.000 euro per un comune di 13.500 abitanti ci sembravano un pochettino eccessive. Noi ci siamo riorganizzati, anche perché tenga presente che il tutto mi era stato segnalato da una ispezione del MEF, la Ragioneria dello Stato, sì, e quindi noi ci siamo adeguati. Quindi vedete che le cose funzionano, le cose ogni tanto funzionano. L'ispezione del Ministero dell'Economia ha segnalato queste cose, voi avete reagito, avete tagliato, ma questi dirigenti che fine hanno fatto, per curiosità? Allora, i dirigenti si sono, diciamo, allocati in altri comuni che avevano la necessità di reperire questi dirigenti. È un po' il gioco delle tre carte, però, sindaco. Come dice? È un po' il gioco delle tre carte, sindaco, cioè si spostano di qua e si mettono di là. Ma comuni limitrofi o a Bolzano? Sì, sono comuni che sono sul territorio, ma stiamo parlando di comuni più di grandi. 100.000, 70.000 abitanti, 80.000 abitanti. Sono contenti, insomma, sono contenti questi tre dirigenti. Beh, stanno bene loro sì, perché intanto hanno conservato una dirigenza che effettivamente, insomma, per loro è oltre che un risultato, anche un privilegio economico, perché chiaramente certo. costi per i dirigenti, come lei ha potuto ben capire, insomma, tre persone, 280.000 euro. Sono stipendi pesanti, perché qual è il problema? Che non si possono licenziare questi dirigenti? Beh, guardi, c'erano diverse. Non che lo auspichiamo, perché sennò sembra che vogliamo lasciare la gente a casa, però. No, assolutamente se no. Se parliamo di risparmi, in qualche modo. In alcuni casi, un dirigente aveva fatto già richieste di mobilità precedentemente. Ecco. Noi abbiamo riorganizzato la pianta organica e fatto, insomma, capire che avevamo necessità di eliminare queste posizioni. Sì. Abbiamo dato, tra virgolette, tempo per poter trovare a loro delle altre collocazioni. Hanno fatto le domande di mobilità, una piccola attesa, e si sono chiaramente collocati in comuni dove c'è effettivamente necessità di queste dirigenze, ma c'è più la possibilità di sostenere questi costi. Ripeto, è una questione di costi. Poi abbiamo tagliato anche delle spese sugli affitti che il comune ha reperito sul territorio. Ecco, altro capitolo importante, sì. 120.000 euro su 250.000 euro che si pagavano all'inizio. Ma affitti di che cosa? All'inizio del mio insediamento io ho trovato un bilancio su quale. No, mi chiedevo affitti di che cosa, che tipo di affitti avete tagliato, locali, mi scusi. Magazzino, attività, diciamo, nel territorio, abbiamo ottimizzato gli spazi che avevamo in comune. State un po' più stretti, però ci state, avete quasi dimezzato, da quel che abbiamo capito, le spese per gli affitti. Pensate se riuscisse a farlo lo Stato italiano, o quantomeno, non so, l'area dei ministeri a Roma, o anche semplicemente i palazzi della Camera e del Senato. Sarebbero risparmi di milioni di euro in questi casi. Ma mi scusi, ma quindi queste larghe intese funzionano? Perché lei ci ha spiegato che insomma lei ha iniziato un'amministrazione di larghe intese ben prima che ci fossero le larghe intese al governo a Roma, giusto? Guardi, io, se vuole un mio pensiero, certo che lo vogliamo, certamente personale, le dico che per i comuni poi le appartenenze politiche contano ben poco, se si lascia spazio a chi deve amministrare. Piuttosto che riportare il risultato nelle sedi di partito, bisogna portare i risultati sul territorio, ai cittadini che oggi, vessati dalle tasse che il governo continua a mettere, indirettamente sono vessati anche dei comuni, perché anche noi, come puoi ben immaginare, abbiamo i nostri compiti, noi tassiamo i contributi per i servizi, che per i comuni comunque, come il mio, lei appena mi ha detto che insomma le opere pubbliche, il patto di stabilità, significa che sono stati fatti dei servizi, ma significa che anche hanno un costo. E ma soprattutto poi camminate per strada e li incontrate, i cittadini, tipo andate nello stesso bar, quindi diventa anche un po' più difficile fare i furbi. Sicuramente sì, ma sai, le mie immagini che molti comuni hanno fatto, per esempio, i furbi sull'aliquota della prima casa, pensando che lo Stato rimborsasse parte delle quote dello Stato, e noi non l'abbiamo fatto, quindi quelli che oggi sono costretti a pagare la mini IMU a San Giovanni non la pagano. Senta, una cosa però, una curiosità me la voglio togliere, ha avuto qualche protesta all'interno del comune, dei colleghi, dei dipendenti, visto che dovete stare in meno spazio, avete tagliato qualche dirigente, quindi qualcuno dovrà lavorare un po' di più, un po' di malumore c'è stato o no? Guardi, io, per essere onesti, le dico sì, un po' di malumore c'è stato, certo, non per gli spazi, perché comunque anche quando si ricavano gli spazi ci sono delle norme igienico-sanitarie che vanno rispettate. E va bene. Ci sono stati dei provvedimenti, oltre a quello, come le dicevo prima, messo in evidenza dal MEF, anche recupero da parte dell'ente di alcune somme che, secondo la ragione dello Stato, non erano dovuti. Questo chiaramente per chi ha lavorato, vedersi togliere dei soldi, però lei, come può ben immaginare, ci sono degli organi di controllo che poi hanno sottoposto la questione alla Corte dei Conti, e siccome la Corte dei Conti poi alla fine un responsabile... No, ma insomma, volevo capire se quando lei gira per i corridoi del comune la guardano male dopo che ha fatto tutti questi tagli oppure no, però mi sembra che resista. Auguri, grazie al sindaco Marinucci di San Giovanni Teatino. Questa arrivederci. La storia Spending Review in salsa abruzzese, 800 24. No, che è stato il numero verde, adesso basta, è finita. Ce l'abbiamo fatta, siamo vivi. Posso dire che stanotte praticamente non ho dormito, sono molto contento di essere arrivato vivo alla fine della trasmissione. Non dovevo dirlo, forse, da stagista non dovevo dirlo. No, vabbè, poi l'hai detto ormai, quindi. Ci sentiamo domani, grazie ad Andrea Piana che ha scritto insieme a noi il programma, così come Giorgio De Luca in redazione, Carmelo Lauricella in regia. Ci sentiamo domani. Ecco, la ricetta per salvare l'Italia è quello che lo Stato deve dare, lui, i crediti alle aziende a un tasso dell'1%, non che dà i soldi alle banche all'1 o più o meno e ce lo passa a noi all'8%. Questo è il sistema. E poi dopo, invece che dare i soldi agli operai per la disoccupazione, quello che è, diano i soldi alle aziende che non devono licenziare. Questo è il sistema. Non dare i soldi a UFA a tutti senza nessun riscontro. C'è gente in cassa integrazione che fanno tutti un altro lavoro. Buongiorno, grazie.